Do la parola con tanto piacere al professor Morales. Nel programma trovate che è peruviano, no, è argentino. Ecco. Di dove? Buenos Aires. Buenos Aires. A lei la parola, professore. Grazie. Portegno, cosiddetto. Ecco. Portegno. Buongiorno ancora. Due prenotanda, due avvisi per cercare di chiarire meglio questo mio intervento. In primo luogo, questa mattina, quando riflettevo ancora su questa conferenza, mi sentivo un po' come quei predicatori che devono fare la predica sul tema della domenica e cominciano da Adamo ed Eva, annoiando ovviamente ai presenti. Ma queste prenotanda che io dovrò fare, dovrò spendere un po' di minuti per parlare appunto degli approcci verso la storia, la riflessione storica dell'America Latina, considero che siano necessari. Scusate se per alcuni possono essere delle riflessioni ovvie. In secondo luogo, pensavo anche che sistematizzare, organizzare il pensiero dei gesuiti circa il tema dell'evangelizzazione non è facile, per non dire che è un lavoro impossibile da fare, perché è difficile capire o presentare una specie di corpo unificato, di pensiero organizzato dei gesuiti con riguardo alla evangelizzazione. Abbiamo avuto di tutto e abbiamo di tutto. Abbiamo avuto di uomini che erano d'accordo con l'intervenzione armata, con accompagnare l'annuncio della fede con l'esercito, altri che erano a favore della pace. Insomma, la Compagnia di Gesù offre nei suoi uomini una enorme varietà di pensiero. Ho scelto, sì, alcuni testi di gesuiti peruviani della seconda metà del 500, inizio del 600, per presentare questo primo impatto che alcuni gesuiti, non la Compagnia di Gesù, alcuni gesuiti hanno quando arrivano in terra americana. E qualche riflessione, per ultimo, riguardo al già citato libro, trattato di José de Acosta, De Procuranda Indorum Salute. Allora, cominciamo con l'introduzione. Le difficoltà per percepire le nuove realtà. È quasi impossibile considerare l'evangelizzazione americana come un fenomeno suscettibile di una comprensione immediata e definitiva. Per avvicinarsi a questa realtà è infatti necessario tener presente, analogamente a quanto fece la maggior parte dei primi evangelizzatori, una molteplicità di sfumature. A questo scopo devono ricostruirsi con pazienza le scuole di pensiero di allora ed è necessario proiettarsi nelle distinte fasi del processo di evangelizzazione, tenendo presenti le particolarità culturali e i diversi progetti missionari. Esiste un male comune, un vizio, nella percezione della realtà, a causa del quale si tende a unificare questa stessa realtà in schemi preconcetti, piuttosto che procedere a una semplificazione del fenomeno complesso, tenendo conto delle diverse sfumature. Questa deformazione, che non si corregge con il passare del tempo, anzi a volte peggiora, ricorre anche in alcuni testimoni dei fatti apparentemente obiettivi. Alcuni uomini del secolo XVI sono infatti caduti in questa stessa trappola. Essi, incontrando l'altro, l'alter orbis, scoprendo una realtà nuova che veniva loro incontro a distanza di pochi giorni dalle coste conosciute, quasi 30 giorni, dalle Canarie, si videro obbligati a spiegare, riducendo, unificando, generalizzando la storia in canale a questo movimento di pensiero in due grandi poli, nel mito del selvaggio selvaggio e del selvaggio buono. ambedue provocarono e provocano tuttora dei notevoli danni. Impediscono di contemplare il volto dell'altro in quanto altro, collocandosi ambedue tali approssimazioni su un piano di superiorità. Di fatto, questi due approcci non sono altro che proiezioni dell'uomo europeo che si serve dell'indio come specchio di se stesso, impedendosi di scoprire ed incontrare l'altro e continuando a pensare il mondo a partire di se stesso. L'altro, la diversità, non porta l'uomo europeo a problematizzarsi, poiché questi ha una risposta già pronta. America sarà infatti Arcadia fabulosa, le desiderate Esperidi, il continente delle smisurate cime, la terra deforme dove gli alberi, dicono che ha detto Isabella la Cattolica, dove gli alberi non si radicano e gli uomini hanno poca verità e ancor meno costanza. Le risposte già fatte. La favola aumentò in ragione del fatto che l'America, o almeno la parte che si presentava agli occhi del gran ammiraglio, aveva qualcosa di deludente. Il mito fu allora ponte necessario, la funzione del mito, tra la realtà quotidiana e la febbre dell'oro, impulso della geografia e della storia, ciò che diede una motivazione per attraversare l'immenso oceano. Così lo credette Colombo quando, al ritorno del suo secondo viaggio, sbarcò abbigliato come un francescano, con l'abito dell'osservanza, accompagnato del fratello del cacique Quanabò, che portava un appariscente collare d'oro, era il meno che si poteva ottenere da Ophir, le cui piazze erano tappezzate di metallo dorato, bugie. Malgrado questa scena, a Colombo venne attribuito dal popolo il soprannome Ammiraglio dei Moscerini. Da una distorsione, dalla terra dell'oro, si passava all'altra, all'Ammiraglio dei Moscerini. Insieme a questo processo di generalizzazione, di cui ancora oggi si subisce la tentazione, si ebbe un altro fenomeno da cui è possibile imparare. La Spagna non solo scopre l'America, ma scopre se stessa. Non soltanto entra in America, ma anche l'America entra in Spagna. I tesorieri della prima ora, delusi per la scarsità di oro, parlano nei loro bilanci di boio, di cacique, di amaca, di macana, tutte parole indigene. Per alcuni l'America non fu solo un luogo in cui prendono consistenza i miti, ma uno spazio grande, quasi infinito, che consentiva di riflettere, in definitiva di crescere e imparare. La riflessione, e finisco con questa mia introduzione, la riflessione storica deve tendere ad evitare e smascherare il tranello del ricorso al mitologico, alle risposte unificanti e semplicistiche. La ricerca storica deve presentare la diversità dell'America per poter riflettere. Il lavoro storico accompagna lo sforzo di molti uomini che cercarono di comprendere, che si fermarono di fronte alla realtà complessa e si interrogarono. In questo senso si può intendere storia come lux veritatis, vita memorie, magistra vitae, nuntia vetustatis. Così intesa, la storia indica la comune condizione della storicità, condizione per la quale il sapere storico non è la verità, né tantomeno la sola ricostruzione dei fatti, ma è lux veritatis. Di questa lux tutti partecipano e giunge sino a noi in chiave profetica, in modo che interpretando vetustatis si comprendano i segni e gli eventi presenti, le costanti, le linee di forza ai quali è meglio essere fedeli per diventare fecondi. La storia del processo di evangelizzazione è un campo privilegiato per osservare queste attitudini, nei limiti in cui si tiene conto del fatto che furono diverse le scuole, i modi, gli artefici dell'evangelizzazione, i progetti, e che dai Caribes ai Guaycurús le distanze culturali sono enormi. Si può generalizzare con le debite eccezioni per poter capire. un maestro che si interroga, il già citato anche ieri Francisco De Vitoria. L'evangelizzazione, e a me la riflessione attorno a Francisco De Vitoria, che poi questo pomeriggio rifletteremo più a lungo su di lui, mi serve soltanto come l'esempio di un teologo che non ha delle risposte pronte per risolvere il cosiddetto dubbio indiano e si interroga. Un bel esempio di maestro che si sa domandare. L'evangelizzazione, in particolare quella realizzata in America nel XVI secolo, si fonda sui grandi centri teologici dell'epoca. Per quanto riguarda l'evangelizzazione iberoamericana, fu particolarmente influente la riflessione teologica sviluppatasi nell'Università di Salamanca con Francesco De Vitoria, Domingo de Soto, Melchior Cano. Fin dall'inizio un angelo protesse l'America, l'angelo del dubbio. Il dubbio si pose infatti nella mente dell'imperatore Carlo dopo aver ascoltato le gravissime accuse che gli venivano riportate dalle Indie, dalla scesa voce di Bartolomé de las Casas. Il dubbio potrebbe aver inciso sino al punto di rendere ipotizzabile l'abbandono dell'impresa indiana. E se l'angelo non influenzò l'imperatore fino a questo limite estremo, giunse certamente a porre il dubbio sulle ragioni e il modo della presenza spagnola in America. A partire da questo momento iniziò un dialogo tra la corona e i consiglieri, gli esperti che furono eletti per risolvere il problema. Ma attenzione, l'imperatore non si rivolgeva ai suoi consiglieri politici o economici, né tantomeno alla Santa Sede. Il dubbio indiano si convertì in un problema di coscienza. A Carlo non bastava un decreto imperiale per rasserenare la sua coscienza, né una bolla papale, una specie di nuova intercetera, per tranquillizzarsi. L'autorità, principio che non sempre purtroppo è presente, l'autorità per risolvere il conflitto di coscienza si trova in colui che sa, non in colui che ha il potere, necessariamente. Questa conoscenza in quel momento storico si trovava in Valladolid, in Salamanca, tra i teologi, nella persona di Francesco De Vitoria e altri teologi. Carlo I si rivolgeva ai teologi, coloro che dovranno illuminare l'azione. Le risposte alle consultazioni del 1542 e a quelli posteriori che si avranno in Perù negli anni 1567 e 71 coincidevano nel ritenere che l'imperatore doveva aver cura di questa terra per quanto attiene alla dottrina e alla giustizia, e peccherebbe, cito, mortalmente se non se ne prendesse cura. La presenza spagnola si giustificava quindi in rapporto alla giustizia, e questo sarà presente anche nei testi dei gesuiti che vedremo, alla promozione e alla conservazione, perché questo vuol dire evangelizzare, a una sempre maggiore e migliore umanizzazione, perché anche questo vuol dire evangelizzare, e anche alla cristianizzazione. Questo insieme di aspetti si potrebbero denominare, secondo le categorie dell'epoca, evangelizzazione. Il caso America entrerà a far parte degli utrum sit della teologia scolastica. Il dubbio indiano porrà in gioco altri interrogativi. Supererà la istanza legislativa del requerimiento, idealistico, ingenuo, sofistico per Vittoria, per inaugurare un sistema legislativo attento, come è stato il sistema legislativo indiano, alle differenze culturali, dedito a sottili problematiche concrete di morale economica e di lavoro, di organizzazione urbana o relative alla moralità dei conflitti armati. Non soltanto. Il dubbio indiano porrà in gioco tutta un'argomentazione che revisiona e scruta l'autorità papale, titolo questo che si invocava tra i principali per giustificare la presenza di Spagna in America. Nel suo De Indis Vittoria non concede nessuna autorità al Papa, nessun potere, né temporale, né spirituale, né diretto, né indiretto, dice lui testualmente, per quanto riguarda la presenza spagnola in America. Il Papa non c'entra. Le argomentazioni di Vittoria per risolvere il dubbio aiutarono a chiarire anche e delimitare la concezione imperiale di Carlo I anche. Sarà signore di nazioni libere, dovrà per questo prendersi cura del loro modo di essere e della loro autonomia. Tale concezione si oppone a quello del suo consigliere, malgrado quello che pensino alcuni dei miei maestri, tale concezione si oppone a quello dei suoi consiglieri piemontese Mercurino Gattinara. La differenza consisteva nella distanza enorme che intercorre tra la monarchia universale e la Universitas Christiana, che Carlo I cercherà di organizzare. Il dubbio indiano entra, per così dire, salto Vittoria che il professore questo pomeriggio ci illustrerà, per passare alla testimonianza di alcuni gesuiti in terra americana. Dicevo che il dubbio indiano entra, per così dire, nella seconda generazione dei maestri e dei discepoli di Salamanca, Domingo de Soto, tra gli altri. Ed entra anche tra i gesuiti che studiavano a Salamanca e che pochi anni dopo arriveranno in Perù. E il dubbio non già come pura materia di scuola che assilò il padre Hernandez, nominato da San Francesco Borgia, allora generale della compagnia, confessore dal viceré del Perù, Don Francisco de Toledo. E il padre Hernandez, cominciamo a leggere un po' di documenti, scrive così al padre Francisco de Borja: vostra paternità mi ha ordinato di andare in Perù, e secondo ciò che mi hanno scritto sarò il confessore del viceré Don Francesco di Toledo. Sono obbligato a rappresentare a vostra paternità, ad oppormi a questo vostro mandato. Posto questo, sappia vostra paternità che da quando ascoltai in Salamanca la teologia e ebbi notizia degli affari delle Indie, del re di Spagna e del modo in cui presero il potere quelli che vi si trovano, e si riferisce al primo momento, attenzione, della presenza in Spagna, e il modo con il quale hanno il loro repartimento e i loro guadagni, le loro proprietà, seppi dai miei maestri, frate Domingo de Soto e frate Pedro de Sotomayor ed altri, che tutto ciò lo avevano guadagnato in modo malvagio, e per coloro che ivi possedevano ricchezze, frutto di quel modo di fare, le tenevano con molto pericolo per le loro anime. E in particolare ricordo un consiglio che mi diede frate Domingo de Soto. Allora erano amici i gesuiti e i dominicani. Mio padre e maestro, col quale aveva molta amicizia e che aveva consultato per sapere se avrebbe persona che avesse portato ricchezze dalle Indie. Egli mi disse, Domingo de Soto: padre, prenda il mio consiglio e fugga da questi indiani se non vuole mettere in pericolo la sua anima. Da quel tempo e per quel consiglio mi è sempre rimasto un grande timore di quel genere di gente. Hernandez finisce come confessore del viceré, deve ubbidire finalmente agli ordini del suo generale. L'evangelizzazione implicò una seria riforma della Chiesa e della società dell'epoca. In questo senso il problema etico inerisce a quello dell'evangelizzazione, poiché tutti gli sforzi per porre in essere rapporti più giusti costituiscono già un modo di evangelizzare, mentre il loro detrimento o la loro assenza ne costituiscono un ostacolo alla realizzazione. Perciò è utile ricostruire sia dal punto di vista sociale che da quello specificamente ecclesiastico la situazione così come la descrivono alcuni documenti dei gesuiti. Scrive il padre Ruiz de Portillo, provinciale a San Francisco de Borja: una preoccupazione mi spinge a desiderare che vengano dei gesuiti, per il fatto che questa chiesa è costruita sulla base di un così cattivo esempio, in modo che questi nuovi virgulti capiscano che la chiesa, la sua dottrina e del suo esempio sono puri, e che essa non è né avara né disonesta né amica delle divisioni. Qui non si pensa a confessare ed esercitare il ministero spirituale, ma a guadagnare argento, e fa paura vedere che la compagnia fa il suo lavoro gratuitamente, almeno in quel momento, e glorifica Dio. La disonestà degli ecclesiastici, dei religiosi, continua il padre provinciale, è così dilagata che quasi non la si considera un male. Tanta ingiuria recano ai poveri indios, alle loro donne e ai loro figli, coloro che dovevano essere i loro maestri. Inoltre, le divisioni tra vescovi, governatori, religiosi, vescovi ed ecclesiastici è uno scisma che spaventa. E la povera Chiesa Nuova che potrà fare? Spagnoli che riformano spagnoli. Detto sia così, en passant. Giudizi dello stesso tenore vengono espressi dal padre Lopez, gesuita molto curioso, per certo, nella lettera a Francesco Borja con riferimento ai castighi che alcuni missionari infliggevano agli indios. È una grande pena che con frustrate castighi crudeli vogliono che il povero indio creda. E in più vedere che per mano del ministro del Vangelo debba essere castigato e umiliato. Da ciò nasce che né confessano verità, ne vogliono conoscere la verità del Vangelo, né gli credono vedendo il cattivo esempio dei laici ed ecclesiastici. Mi ha stupito vedere alcuni indios che arrivano da noi con lacrime a lagnarsi dicendo che come possono essere cristiani se i padri insegnano loro a rubare e a compiere adulterio, cose molto dolorose. E questo mi fa tremare e chiedere con le lacrime a nostro Signore e a vostra paternità in sua vece che vada alla compagnia e mandi gente onestissima, perché non sempre tra i gesuiti ci sono stati degli onesti e il processo, i processi delle inquisizioni a Lima conta più di una trentina o quarantina di gesuiti che furono processati e non tutti per motivi ideologici, Il cattivo esempio di alcuni missionari che caricavano i loro ingenti beni su cavalli sulle spalle degli indios scandalizzava il padre Lopez. Anche lui è stato processato, Lopez. Non c'è religioso che cammini che non porti il suo letto e il suo cibo con cavalli sulle spalle degli indios. Ciò che è stata una delle cose che più mi hanno scandalizzato in questa terra, venendo a predicare la povertà e anche perché è iniquo caricare gli indios. È da notare che la denuncia, attenzione, si stabilisce a partire dalla cornice giuridica dell'epoca. Di fatto la legge proibiva di caricare gli indios. D'altra parte, questa disposizione particolare, come molte altre, era stata suggerita dalla denuncia di comprovati abusi. Lo stesso può dirsi per le punizioni degli indios per mano dei doctrineros e dei religiosi, che la legge proibiva espressamente. Tuttavia, la denuncia indiscriminata contro il sistema in blocco, favorisce il perpetuarsi delle ingiustizie concrete. L'alternativa è nel denunciare in modo che se non vi è la legge, si faccia, o se questa vi è, la si applichi. Lo stesso Lopez si lamentava che la povertà dei gesuiti non fosse maggiore. Questo piango e piangerò, e non smetterò di dirlo a vostra paternità. Volesse Dio che la compagnia non avesse che una capanna d'indio, a voglia, per vivere e crescesse l'edificio spirituale che si è così cominciato. Certo, se uno ha presente la capanna d'indio, dopo vede le riduzioni, certo, la distanza, ma è un altro problema. In un'altra lettera del padre Hernandez, diretta all'allora presidente del Consiglio delle Indie, Juan de Obando, si ricordava che l'unico titolo per stare in America era il lavoro in favore degli indios, la loro evangelizzazione e promozione. Come vostra signoria sa, tutti quanti siamo venuti per loro e non sembra che vi sia un altro titolo per poter mangiare ciò che qui mangiamo. Tutti, laici ed ecclesiastici, e anche quelli della Spagna che mangiano e si mantengono con ciò che viene da questa parte, se non dare loro la conoscenza di Dio e della nostra fede e aiutare questa gente con dottrina affinché la ricevano. Purtroppo era la cupidigia, sia negli ecclesiastici come nei laici, quella che imperava. Negli ecclesiastici non si mescolava nemmeno con un po' di zelo per compiere la loro missione. Continua Hernandez, ed essendo così sono molto pochi coloro che attendono la loro missione veramente, perché anche se non sono molti responsabili, taluni per il governo temporale ed altri per quello spirituale e per insegnar loro la dottrina, sappia vostra signoria, che alla maggioranza, per non dire a tutti, vi si può applicare la frase omnes querunt que sunt e non que sunt Jesu Christi. I laici tutti si preoccupano di arricchirsi e guadagnare molti denari o molt'oro, o eredità, o miniere, e tutti cercano di approfittarsi dei poveri indios a questo fine. Volesse Dio che si arresti la cupidigia tra i laici, o almeno quella degli ecclesiastici fosse mescolata con un po' di zelo in favore della conversione di questi poveri indios e trovare i mezzi per la loro conversione. Tutti questi documenti dobbiamo leggerli intelligentemente, sono da sudditi a dei superiori. Sappiamo che da bassa metodologia storica che un documento fatto ad un suddito, un superiore, di solito vengono caricati così con dei colori non sempre molto di verità, ma è una testimonianza, I risultati da questo comportamento si vedono nella evangelizzazione degli indios. Il cattivo esempio di vita nega ciò che afferma la parola quando viene predicata. E gli indios, mi creda vostra signoria, secondo ciò che riferiscono coloro che sono in rapporto con essi, per la maggior parte sono come i mori di Granada. E quasi tutti hanno soltanto di cristiano il nome e le forme esteriori, ma interiormente non hanno coscienza dei fondamenti della nostra fede. Ciò che è peggio è che non hanno una pia dedizione ad essa, ma tutto ciò che fanno lo fanno perché costretti o per paura di essere castigati. Insieme con la preoccupazione etica, l'evangelizzazione implicò un processo che alcuni hanno chiamato civilizzazione, Pedro Borges tra gli altri, ma che forse oggi sarebbe più opportuno chiamare di promozione umana, di difesa della giustizia, azione congiunte con l'evangelizzazione. Era inconcepibile non umanizzare allo stesso tempo in cui si evangelizzava. Continua sempre la stessa lettera. Prima è necessario che siano uomini che vivano politicamente per farli cristiani. Fino adesso non hanno avuto questa polizia, parola già che avete sentito ieri, come scrive il gesuita Bartolomeo Hernández a Juan de Obando. Oltre al cattivo esempio degli spagnoli, Hernández aggiunge un'altra causa per la quale e gli indios non hanno interiorizzato la fede. Resta ancora da commentare un'altra causa, oltre al fatto di aver ricevuto la fede violentemente e dei crudeli trattamenti che sono stati inflitti, per la quale questi indios non hanno ricevuto interiormente la fede. Fino adesso non sono stati reducidos a nazioni né congregati in modo da poter essere indottrinati, e nemmeno hanno avuto la polizia necessaria per diventare capaci della legge di Dio. Se è vero che la polizia, in un primo momento, come era d'altronde inevitabile, si identificò con un processo di ispanizzazione, non poteva essere diversamente, man mano acquisisce una concezione più universale e tende a sradicare certi costumi, non solo perché contraria alla fede cristiana, ma anche in qualche modo offensivi dell'umanità, per consacrare definitivamente tutte quelle forme culturali di governo, disposizioni legali, buone in se stesse e che non si dovevano sradicare. Ricordiamo che il diritto indiano, quella meraviglia giuridica creatasi in quegli anni dalle tre colonie di cui è costituito, il diritto fondamentalmente di Castiglia, il diritto che è nuovo, che sorge da questa fusione di diritti di Castiglia e le India, e anche il diritto, diciamo così, originario dalle Indie. Cito, le leggi, i costumi, parla Costa qui, il modo di governare che non sono contrari alla legge cristiana e naturale, non è bene abbandonarli, né conviene renderli spagnoli in tutto, poiché, oltre ad essere molto difficile e con il rischio di che tutto si perda, costituisce un grave pregiudizio per il governo e la repubblica loro degli indios. Nel Settecento un altro gesuita, con un'esperienza diversa così, descrive il lavoro con i guaraní. Quando parve arrivare il tempo opportuno, gli si fece capire i grandi vantaggi che avrebbero ottenuto se si fossero radunati in una sede, gli indios, in una sede comune, mettendo in comune le loro idee e i loro sforzi, poiché avevano molto da apprendere sui metodi utili alla vita, sui modi di coltivare i campi con maggiore profitto ed edificare in modo migliore le loro case. E verrà loro insegnato che vi sono anche delle verità di un ordine più elevato, ma dopo, molto dopo. Nel momento in cui organizzate le cose, cominceranno a vivere in pace e in tranquillità. Poi li parliamo di Gesù Cristo, dopo. Certo che alcuni progetti di riduzioni o di riserve indiane sono crudeli, capite? Perché non hanno preparato e non vogliono preparare l'indio davanti all'inevitabile scontro con la civilizzazione, e la civilizzazione se lo mangia. L'idea di costituire villaggi, reducciones, non ubbidisce a un imperativo logistico, ma è anche finalizzata a consolidare il diritto, evitare gli sfruttamenti per una difesa ed una organizzazione migliore degli indios. Sarebbe troppo lungo enumerare in questo processo di polizia tutto ciò che il missionario apprende dell'indio, la sua lingua, la convenienza di certi alimenti, di un certo tipo di vestiario, di alcune medicine e di modi di curare indispensabili per sopravvivere, de procuranda indorum salute. Il trattato del padre di Acosta è forse l'opera più significativa per un approccio all'evangelizzazione, almeno per come veniva intesa da una parte della Compagnia di Gesù, da una parte della Compagnia di Gesù, e non so se la parte maggioritaria di essa. Nominato provinciale della provincia del Perù nel 1576, convoca la prima congregazione provinciale. In essa l'allora provinciale propone davanti a tutta la congregazione, al padre commissario, padre Plaza, la principale finalità, potissimum finem, della presenza dei gesuiti nelle Indie occidentali, ovvero sia ut salute indigenarum procuraret, i quali vivevano in estreme angustie e necessità. Fissato il fine principale, si passò a discutere sui mezzi concreti da seguire per l'evangelizzazione, il metodo delle doctrinas, dopo, vedi, riduzioni, reducciones, malgrado i seri inconvenienti logistici, sembrò il più indicato. Dalla sua realizzazione derivarono non pochi inconvenienti, soprattutto in rapporto a ciò che concerne la collisione dello studio giuridico, dello statuto, scusate, giuridico delle doctrinas con il diritto proprio della compagnia e la legislazione corrente. Sant'Ignazio vietò che i gesuiti fossero dei parroci, e il prete che ha carico, il gesuita che ha carico della dottrina è un parroco, e di qua sorgono e sorgeranno una serie di inconvenienti giuridici di non poco conto, che purtroppo la storia ha lasciato passare. La situazione missionaria, come si è detto, era delicata, implicava una riforma e l'apertura di nuove strade. Tra la prima e la seconda sessione Acosta redasse un memoriale che sarà il cuore del suo De Procuranda. La storia del trattato di Acosta non fu facile. Durante il generalato del padre Acquaviva, lunghissimo e sofferto generalato, la censura ufficiale e quella dell'ordine effettuarono diversi tagli. Il libro mutilato fu presentato al padre Mercuriano nel 1578, ma vide la luce soltanto 10 anni più tardi. Fu così che sparirono attraverso la censura temi, alcuni dei quali già presenti nelle citate informazioni epistolari, come la moralità di certi tributi, il modo di tassare gli indios o la denuncia di certi ecclesiastici macchiati di avarizia che facevano della religione un negozio. Fra gli ostacoli che Acosta avvertì nell'evangelizzazione, i più gravi si incontravano con gli spagnoli, che negano con i fatti ciò che confessano con la parola, molti dei quali trasmettevano il Vangelo con coazione e frode, in modo che con riguardo agli indios la infedeltà si è indurita, dice lui, diventando la loro religiosità pura apparenza e vernice. A Costa denuncia anche il flagello della guerra che distrusse senza giusto titolo lo sfruttamento, con particolare riferimento al lavoro nelle miniere e alla pesca delle perle. Questi capitoli ed altri ancora caddero sotto la censura e sparirono dal libro da Costa. A Costa non disconosce anche l'esistenza di crudeltà da parte degli indios o dei sistemi di sfruttamento precedenti all'arrivo degli spagnoli, durissimi tra gli Incas, molti dei quali seminavano morte al loro passaggio, ma nulla giustifica per lui l'aggressione armata, se non le tradizionali cause per le quali si ammette la guerra giusta. In un punto fondamentale, l'alunno di Salamanca non segue alcuni dei suoi maestri, ovvero con riferimento alla possibilità di giustificazione o di salvezza senza necessità di professare la fede esplicitamente. Egli ritiene che questa dottrina sia apertamente eretica e che renderebbe inutile l'evangelizzazione. Da questa posizione teologica, che io lascio per gli esperti, si potrebbe dedurre una pratica pastorale del sacramento del battesimo con la quale si tenderebbe a battezzare il maggior numero possibile, con il conseguente pregiudizio per la necessaria preparazione. Il problema era già stato presentato da Carlo I a Francisco di Vittoria nel 1539. La sentenza salamantina di preparare al neofito con una sufficiente preparazione fu accolta dal primo concilio limense, il quale determinò come minima l'età di 8 anni, a partire dalla quale il catecumeno doveva ricevere un corso di iniziazione di almeno 30 giorni. Anche il terzo concilio farà lo stesso, e Acosta proponeva invece un vero catecumenato per gli adulti di almeno 1 anno o più. In questo tempo il neofito apprenderà la verità della fede, ma poiché, attenzione, questa è indissolubilmente unita alla pratica della giustizia, apprenderà dal suo maestro, il dottrinero o il missionario, la difesa di quest'ultima. E questa è la prima lingua, quella che si deve apprendere per convertire, cito Acosta, la lingua dell'esempio di vita. Vedano nel missionario un padre protettore, interceda frequentemente per essi di fronte al capitano e al giudice, difendendoli dalle ingiurie dei soldati, li soccorra nella povertà anche a scapito proprio. Questa coscienza cristiana, impregnata di alta moralità e di spiccato senso della giustizia, si rese manifesta nel momento in cui l'indio cristiano fu tenuto a difendere i suoi diritti. Questa difesa si fece infocata diatriba in bocca del cacique di Sant'Ignazio, missione fondata dai gesuiti, rivolta contro dei portoghesi e degli spagnoli dedicati ad organizzare spedizioni di distruzione e morte per schiavizzare gli indios, las malocas. Parla l'indio e dice, cacique: ma veramente chi non può non capire che questa barbarie è indegna di un cristiano? L'indio dice: con quale autorità e potere osate in terra straniera commettere sì brutali crimini inauditi tra noi cristiani? Cosa succederebbe se questi misfatti li facessimo noi in Europa contro la vostra gente? Cosa pensareste? Quali preparativi di guerra non fareste? Quali spedizioni armate contro di noi? Siete devastatori e non soldati. Vi chiamate senza alcun motivo cristiani, macchiati spudoratamente questo glorioso nome con i vostri delitti. Voi, i famosi seguaci di Cristo, pretendete di rinfacciarci le nostre cattive abitudini, forse meno cattive delle vostre, e ci dite che noi non siamo dei cristiani, che non crediamo in Dio, che non sappiamo nulla di Lui, che siamo uguali alle bestie. E che altro in più? E perché? Supponiamo che così sia. Ma voi siete per caso dei veri cristiani? Credete forse veramente in Cristo? È una farsa chiamarvi cristiani con un nome così grande. Siete delle fiere, più che fiere, pazzi furiosi, malfattori incalliti. Da una prima lettura di questo testo possono dedursi alcune osservazioni. Si può dubitare che il cacique abbia biasimato gli europei, arrestati, portati alla piazza del villaggio di Sant'Ignazio, con queste esatte parole. ma non c'è nessun dubbio che così pensasse chi ce le tramanda, il padre Diego de Torres, primo provinciale della provincia del Paraguay e discepolo di José de Acosta. È vero che l'indio in certe occasioni fu denominato fiera, non soltanto per i suoi detrattori, ma anche da quelli che l'amavano ed evangelizzavano, soprattutto quando erano messi davanti alla cruda realtà di alcune sue costumanze. Ma il testo citato lascia vedere che anche l'europeo si converte in fiera se non si conforma al suo battesimo e ai valori che questo implica. L'evangelizzazione sveglia, illumina, forma la coscienza etica. Questo modo di procedere ha avuto anche le sue risonanze nel lavoro pastorale con gli spagnoli, con i creoli, perché l'America non è soltanto formata da indios e neri, anche noi siamo americani. Gli altri destinatari dell'evangelizzazione insieme agli indios, purtroppo io di sangue indigena ne ho molto poca, come potete anche osservare. Alcuni predicatori gesuiti furono famosi per le loro prediche in favore della giustizia, nelle quali denunciavano i soprusi di cui erano vittima gli indios ed esortavano ad un cambiamento radicale di certi atteggiamenti. Così per esempio il caso del padre Ruiz del Portillo, di cui il padre Amador scrive al generale. Nostro Signore muove loro così tanto che vengono dai padri a rimettersi nelle loro mani per capire ciò che devono fare finché non si perda la loro anima dietro alle ricchezze temporali, e così hanno fatto grandi restituzioni agli indios e ad altre persone. Certi problemi teologici da alta scuola diventano quesiti della coscienza individuale, che deve essere scaricata, descargata, alleggerita, e se occorre si dovrà restituire tutto ciò che si è potuto avere come frutto dell'iniquità e della violenza. La coscienza del cristiano deve essere illuminata, diciamo, aiutata, non mortificata, con pesi che non può portare. La censura non deve perciò essere esagerata, perché si rischia, tra l'altro, di rovinare tutto il processo di conversione, che è la cosa più importante. Su questa linea Costa esortava il sacerdote che abbia a che fare con gli incomenderos in questo modo. I sacerdoti, quando trattano nelle loro prediche l'argomento degli incomenderos o ascoltano le loro confessioni, non devono costituirsi in giudici esagerati, in modo di non perturbare la loro pace inutilmente e la irrequietezza dei loro cuori rimanga senza dare frutto. Ci interessa il frutto, che cambino veramente. Non denunciate stoltamente. Piuttosto devono essere come Giovanni il Battista con i soldati, quando loro gli domandavano riguardo alle possibilità di salvezza, Giovanni rispondeva essenzialmente con delle parole concise: non maltrattate e non estorcete niente a nessuno, contentatevi delle vostre paghe. Può osservare ancora una volta in questo testo l'appello alla cornice legale, importantissima come primo passo per vivere nella giustizia, per salire ulteriormente a un livello di comportamento morale più esigente. Forse è per questo che Acosta chiedeva al sacerdote confessore di non permettere all'encomendero che faccia con gli indios scambi e traffici o baratti vietati dalla legge. D'altra parte Acosta non si ingannava e sapeva che la legge non sempre era stata osservata. Le leggi dicono, dice lui, che si deve rimediare a questo inganno e malvagità, ma fino al giorno d'oggi non vediamo nulla di cambiato. Ma non perciò si deve cedere nell'insistente richiesta della sua messa in pratica. La legge, si può dire, è l'interprete e il livello comune a partire del quale regolarsi. Esigere il suo adempimento è il primo passo per arrivare a forme di vite sociali sempre migliori. È da sottolineare, finisco e arrivo alla conclusione, è da sottolineare il modo in cui la pratica pastorale, almeno in ciò che aspetta la confessione e la predicazione, era accordata e accompagnava la riflessione teologica. Sarebbe inutile, anche sterile, in quei tempi tentare una divisione fra quelli dediti a una catechesi che oggi potremmo chiamare liberatrice ed altri orientati all'amministrazione dei sacramenti, los sacramentalistas. Allora la stessa pastorale sacramentale era frutto di un preciso impegno teologico che coinvolgeva aspetti sociali di non poco conto. Conclusione. Senza dubbio la riflessione teologica iberoamericana ha bisogno di un'attenta lettura della storia, in modo che si disponga a smantellare certi luoghi comuni, sia capace di snodare la ingenuità di alcuni approcci mitologici, in modo da fare una lettura sempre critica e attenta alle fonti, paziente nella ricostruzione della cornice giuridica, per evitare giudizi talvolta pieni di buone intenzioni, ma sterili nel loro anacronismo. Ma è altrettanto vero che la meditazione storica di Iberoamerica non può tralasciare il fatto teologico dell'evangelizzazione nelle sue due inseparabili costituenti, l'annunzio della buona novella e la difesa della giustizia, la promozione umana, difesa e promozione che in America si convertirono in teolegumena della fede. Questa evangelizzazione si convertì nel motivo principale della presenza in America. Fu per questo spirito che si vietò la parola conquista. Uno spagnolo dopo il 1573 non poteva parlare di conquista, poiché dovendosi, cito il testo della legge, poiché dovendosi fare le scoperte con tanta pace e carità come è il nostro desiderio, non vogliamo che questo nome dia motivo né sembianza alcuna in modo che si possa fare ingiuria o offesa agli indios. Ed è anche lo spirito di questa impresa che fu presente nella legislazione indiana e fu consacrato nella grande raccolta di leggi del 1680. Non si faccia la guerra agli indios di nessuna provincia affinché ricevano la santa fede cattolica o ci diano ubbidienza, né per nessun altro motivo. Purtroppo oggi nessuna voce parla così chiaramente. Nessun motivo per la guerra. La legge. A partire dal battesimo in questa fede e pertanto in questi valori si deve leggere la storia e l'evangelizzazione. Il battesimo appare così come luogo ermeneutico privilegiato per capire la realtà iberoamericana. Certa mentalità rinascimentale che ancora costruisce dei miti sull'America segnò per sempre un abisso tra essa e l'Europa. Sotto la cosmovisione del selvaggio selvaggio o del buon selvaggio, come volete perché è lo stesso, America sarà sempre vista come sottosviluppo, come qualcosa di inferiore. La distanza esistente tra il primus homo, cioè l'uomo naturale, primitivo, e il secundus homo, generato dalla cultura, sarà sempre incolmabile. Si ha l'impressione che sia impossibile accorciare le distanze tra la civilizzazione europea e quella americana, che il secundus homo americano non raggiungerà mai il suo corrispondente europeo. Se si crede con il Boccaccio che l'uomo primitivo deve essere modellato, ricreato dal secondo Prometeo colto e civilizzato, tramite il sapere che è potere, l'uomo americano ha cominciato il suo corso con 1500 anni di ritardo. Non ci arriveremo mai noi a raggiungerli, se è questa il punto di partenza della cosmovisione. Talvolta, nelle difese più appassionate di ciò che è indigeno, a partire dalle Casas ai nostri giorni, si sente un eco di inferiorità o una larvata confessione di superiorità, già che senza volerlo si diminuisce, come faceva d'altronde Bartolomé de las Casas, si diminuisce, si rende bambino l'indio, per difenderlo dai potenti che vengono sempre da fuori. Non c'è nessuna potenza in America. La potenza che sfrutta sempre è fuori. Di fatto i parametri che si applicano sono quelli della cultura del vicino. La visione dominatore-dominato resta insita in più di un modello volutamente liberatore. A partire dell'ottica del battesimo si può accorciare per sempre la distanza tra il primus homo e il secundus homo. Soltanto chi viva i suoi valori e le sue implicanze si converte nell'uomo nuovo. Per il battesimo America ricevette la consapevolezza della sua dignità di essere di Dio. E perciò, e questo vale più che tante rivoluzioni, e perciò di vivere nella pace, nella giustizia, cioè in polisia. E chi non realizza nella sua vita questi valori, anche se europeo e battezzato, si converte in una vera bestia. Così avvertì quel cacique ai portoghesi e agli spagnoli, cacciatori di indios. Voi vi aggirate per la giungla come le fiere. Noi, dice l'indio, grazie ai nostri missionari, godiamo di benessere. mentre ascoltiamo la parola di Dio e ci abituiamo a vivere cristianamente. Tra colui che battezza e chi viene battezzato non ci sono più differenze. Non è più grande il sacerdote che battezza che l'indio battezzato. Il battesimo colloca tutti e due sullo stesso livello. Questa evangelizzazione è per me la nuova evangelizzazione, l'unica. Adesso non possiamo inventare nessuna nuova, secondo me, nessuna nuova evangelizzazione. Questa nuova evangelizzazione cominciò, grazie a Dio, con gli spagnoli, intorno al 500. Questa evangelizzazione fu incarnata nel lavoro di molti uomini che diedero la loro vita per essa. La storia della cartografia conserva una mappa del 700 nella quale si rappresenta l'area delle riduzioni gesuitiche del Paraguay. Peccato che non ce l'avete davanti. Con una croce l'autore segna il luogo in cui morirono i missionari che portavano la luce della fede alle nazioni barbare. Sto citando la leggenda della carta, e dell'esercizio dello zelo apostolico. Con lo stesso segno, dice l'autore, si mostrano i posti ove furono assassinati alcuni gesuiti per mano dei portoghesi, nemici dello zelo, con cui questi difendevano la giustizia dei loro neofiti e della loro libertà. Fine citazione. In un modo totalmente marginale si mostra l'azione centrale del missionario gesuita. Lo zelo per la fede e per la giustizia. Possono leggersi su detta carta geografica delle leggende di questo tipo. Cito: qui morì per mano dei portoghesi paulisti il padre Frias, che si addentrò nel pericolo per la carità e la giustizia. La congregazione 32esima dei gesuiti ancora non era stata celebrata. Per la carità e per la giustizia e per difendere la libertà dei suoi neofiti. Anno 1645. La nuova evangelizzazione continuerà nella misura in cui saremo fedeli continuatori di questo zelo. Grazie professor Morales per questa illuminata relazione appassionata, obiettiva per quanto possa io giudicare,